se un giorno ci fossero le basi per tornare all'Inter, io tornerei anche all'Inter, perché no? Non è un problema. Mario scrive il suo futuro. Il futuro di Mario ce l'ha nelle gambe. Lui decide, è l'unico giocatore che potrebbe vincere il pallone d'oro 2, 3, 4 volte. Messi veramente deve stare attento. Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. I tifosi dovrebbero stare tranquilli. E poi deve essere una squadra che punta in alto. Tutti convocati. Di Giovanni Capuano. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. Ah, mi dispiace, non posso recuperare, spero che i miei compagni possano fare meglio di me, certo che possono farci. Mi sento un po' come un perdente perché vado via per un infortunio del... che purtroppo non riesco a recuperare, mi dispiace, ma mi rimane la rabbia perché volevo arrivare fino in fondo e volevo stare con la squadra, che è la cosa più importante, e mi dispiace non arrivare, solo che devo andare a Milano a recuperare per i preliminari di Champions, e quindi volevo stare con la squadra, ma non posso stare qua una settimana senza fare niente, quindi devo andare a Milano a recuperare per questo. Allora, che si fa? Non lo so, tu che dici? Pianto! Stabiliamo il contatto. Va bene, ok, la routine non funziona. Ok, io ho un piano, so esattamente cosa fare. E chissà se un piano ce l'ha anche Cesare Prandelli, perché è venuto a mancare il numero uno, il centro di gravità della nazionale. Centro di gravità che poco più di un'ora fa alle 12.45 ha rimesso piede in Italia, lasciando orfano Cesare Prandelli in vista della semifinale contro la Spagna. Quanto vale l'Italia senza Mario Balotelli? È la domanda che i tifosi azzurri si fanno in una giornata comunque convulsa per il calcio italiano, e non solo per le notizie che arrivano dal Brasile e che riguardano la lunga vigilia della nazionale verso la semifinale di Confederations. Lo avete sentito anche nei nostri notiziari a partire da questa mattina: la Guardia di Finanza nelle sedi di 41 club, 18 di Serie A, a caccia di contratti e documenti per cercare di fare un po' di chiarezza sul sistema di intermediazioni, di accordi, di sfruttamento dei diritti di immagine, di tutti i meccanismi che regolano il mercato da noi, ma non solo, perché tra i club che hanno consegnato documentazione alla finanza ci sono anche alcune società straniere, i cui nomi in questo momento però sono coperti da segreto ancora. Per quanto riguarda i club di Serie A ci sono tutti i club della passata massima divisione, con l'eccezione di Cagliari e Bologna, anche se c'è un giallo sul comunicato della Procura di Napoli, che inizialmente non nominava anche altre società. Noi faremo un approfondimento su questa vicenda a partire dalle 14.30 con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, uno dei massimi esperti di tutto quanto accade dal punto di vista economico e finanziario nel mondo del calcio e non solo. Prima però vogliamo partire proprio da Balotelli, dall'infortunio che l'ha riportato in Italia e che gli farà saltare la semifinale contro la Spagna e anche l'ultima partita della Confederations domenica sera, qualunque sia la finale per il primo o per il terzo posto. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati. Invece, se volete scriverci su Twitter, come ha fatto Simone, che dice: io schiererei Diamante dietro a Giovinco e Gilardino, perché c'è anche la ricerca di quale può essere l'alternativa. Partiamo dalle parole di questa notte, notte italiana. Così il professor Castellacci, il medico della nazionale, ha annunciato che Balotelli tornava in Italia. Era il caso di rischiare il ragazzo, perché le condizioni ci hanno dimostrato che non avrebbe avuto il tempo di recuperare dal guaio muscolare che aveva. E quindi Mario Balotelli torna in Italia, la sua voce l'avete sentito nella copertina che è stata realizzata da Franco Piantanida. Allora 800 24 00 24, partiamo da Claudio da Ragusa. Buon pomeriggio Claudio. Buonasera, grazie. Prego. Volevo dire che grazie alla mancanza di Balotelli posso ritornare a vedere la nazionale. Allora. Addirittura? Una notizia importante, e non sono solo, siamo molto a pensarla così. Zunia, il Salawi, tutti questi stranieri che vengono in Italia. Mi perdoni Claudio, io non sono riuscito a cogliere il senso della sua telefonata. Balotelli è un personaggio che divide, mi auguro lei non abbia fatto il riferimento al colore della pelle di Balotelli, perché altrimenti sarebbe un argomento su cui assolutamente non la seguo. In ogni caso è evidente che l'assenza di Balotelli costringerà Prandelli a costruire una nazionale diversa, una nazionale che potrebbe anche essere senza attaccante fisso, senza una prima punta, senza il centravanti, qualcosa ad esempio sul modello della Spagna. Vi piace l'idea? Moreno dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Sì, buongiorno, sono Prego. Capuano. Io invece volevo commentare un secondo la sentenza che il Tribunale di Milano, praticamente per lo spionaggio di De Santis, sì, che praticamente ha messo la sentenza che il signor De Santis è stato spiato dalla Pirelli. Sì. In Italia non ci chiede nessuno, però è una sentenza, Moreno. Guardi, io sono della scuola di pensiero per cui le sentenze vanno rispettate, vanno applicate, soprattutto quando poi le motivazioni le spiegano. Poi esisteranno anche altri gradi di giudizio. Evidentemente ci sarà modo di tornarci. Al momento questa è la fotografia che ha fatto il Tribunale di Milano dopo un processo che posso ritenere regolare, e quindi io credo qui dobbiamo fermarci. Grazie comunque, saluto Franco Ordine, ciao Franco. Sì, volevo aggiungere a quella tua, sì, questa tua postilla, che le sentenze vanno rispettate, lo dicono soprattutto quelli che pensano che vanno rispettate quelle che riguardano gli altri. Certo. Sì, questo è un po' troppo comodo obiettivamente. Ma in questo caso poi io credo che si andrà avanti a parlare di questa vicenda anche legittimamente, probabilmente ci sono anche dei lati oscuri e ripeto ci sono ancora due gradi di giudizio. Non solo, ma c'è un aspetto fondamentale di questo processo che oggi non è stato affrontato ma che sarà affrontato nei prossimi giorni, e cioè il Tribunale pensa e immagina che ci sia un servitore dello Stato, un commissario di Repubblica Sicurezza, che ha avuto l'ardire di smentire il PM Boccassini, si è reso falsa testimonianza. Questa non è una roba, questa è una roba da affrontare e da seguire con grande attenzione. Comunque ci sarà spazio e tempo. Franco, ti chiedo 30 secondi per il traffico, poi parliamo di Balotelli. Sì, traffico. Sì, vai tranquillo, vai in mezzo al traffico che io sto fermo. Tutti convocati. We got it together, baby. Il centro di gravità della nazionale che è venuto a mancare, Mario Balotelli, poco prima della una, sbarcato in Italia. Quanto vale quest'Italia, questa nazionale senza Balotelli? Franco? Io penso questo, che è chiaro che perde la sua principale bocca di fuoco, perde probabilmente il campione in prospettiva, di classe in prospettiva, che potrebbe far fare a questa squadra il salto di qualità. Come sostiene Prandelli, come ho provato a indicare stamattina sulle pagine del giornale, tirando fuori nei archivi tutte le partite in cui Balotelli non c'è stato, per rimpiazzarlo bisogna giocare di squadra, bisogna in qualche modo recuperare grandi energie, soprattutto una grandissima attenzione nei confronti del palleggio della Spagna, non abboccare, non andarli a rincorrere come se fossimo in un cortile, ma aspettarli al varco, così come aveva fatto, tanto per fare un esempio, la stessa nazionale nella prima partita dell'Europeo nell'estate scorsa, così come aveva fatto il Milan nella prima partita contro il Barcellona, in cui tra l'altro gli aveva anche rifilato una sonora bastonatura. Intanto sottolineo, perché lo scrivono anche gli amici da casa, al 349-238-6666, il discorso fatto dal primo amico che ci ha chiamato è assolutamente inaccettabile. Benvencano Balotelli, El Shaarawy e tutti quelli che sono italiani e aiutano a fare grande la nostra nazionale, ed è un peccato che Balotelli non ci sia nella semifinale contro la Spagna. Ne parliamo dal punto di vista tattico, tecnico, ci dividiamo, possiamo anche criticarlo, ma qualunque discorso sulla sua origine, sul suo colore della pelle va assolutamente rigettato. Franco, tu scrivi... Poi lo dice, dice a me che vengo da Foggia, penso un po'. Assolutamente, ma purtroppo c'è anche chi chiama e parla di questo. Tu dici giustamente, 14 volte dall'agosto del 2010 a oggi non c'è stato Balotelli, la nostra nazionale è serenamente sopravvissuta, bisogna usare il gioco di squadra, aggiungo io, farebbe bene ci fosse Osvaldo che in fondo dopo l'Europeo del 2012, nelle partite in cui fino a ottobre Balotelli non c'è stato, è stata la prima scelta di Prandelli. Maledetto sì, no, quel tweet. Devo dire che in effetti è stata proprio una leggerezza clamorosa, il gesto di stizza e di rabbia, tra l'altro non sotto la spinta dell'adrenalina della partita, ma partita ormai finita, quindi questo secondo me peggiora un po' la sua situazione, ma è la dimostrazione che per stare a livello di nazionale, per reggere le pressioni, occorre in qualche modo avere una specie di vaccino, e mi pare che Osvaldo purtroppo in queste circostanze non abbia dimostrato di averne a sufficienza. Aggiungo un'ultima cosa, che c'è stata anche la concomitanza dell'Europeo dei Under 21 che ha sottratto qualche risorsa, per esempio se non ci fosse stato questo episodio, questo appuntamento, probabilmente Destro avrebbe fatto parte della nazionale di Prandelli. Sì, io credo però in realtà che l'esperienza di queste due settimane e anche quest'ultimo infortunio di Balotelli da un certo punto di vista rilancino le quotazioni di Osvaldo. Io un mese fa lo davo per tagliato fuori più o meno definitivamente dal giro della nazionale, perché non era nemmeno il primo comportamento borderline che non è piaciuto a Prandelli. Ho l'impressione che se Osvaldo tra 10 mesi sarà in buone condizioni, se davvero è lui l'alternativa di Balotelli, Prandelli ci penserà su due volte prima di lasciarlo a casa. Ti dirò di più, che se fosse stato sano e non con un ginocchio ballerino ci sarebbe stato Pazzini, e quindi tra l'altro guardando un po' anche i tabellini durante l'assenza di Balotelli, per esempio Pepito Rossi, Pazzini, lo stesso Cassano hanno fatto un po' di gol in giro per l'Europa, e quindi questo ti fa capire che dalla cooperativa azzurra è possibile cavare fuori per una partita, naturalmente non per un intero campionato, le energie e le vitamine necessarie per mettere al muro la Spagna. Certamente, ti convince l'Italia con la difesa a tre, magari senza prima punta, con il falso 9? Io guarda, quella è la cosa che più mi stuzzica dal punto di vista tattico, perché ti devo dire la verità, togliere a loro i punti di riferimento, se ti metti lì davanti il girardino della situazione, loro hanno il punto di riferimento, fanno il allineano la difesa dei quattro su quello e giocano di con gli occhi chiusi. Io invece, togliendogli il punto di riferimento e mettendo due ballerini, anche due belle esponenti di fanteria cinese, metto per esempio Giovinco e Sharavi, io li metterei nelle condizioni di non poter avere punti di riferimento, di dover continuamente ballare tra una linea e l'altra della difesa, e questo è, devo dire, il piano tattico che più mi intriga e più mi affascina la vigilia. Credo anche il piano tattico che vedremo giovedì sera contro la Spagna, perché Gilardino è più di una riserva. Oggi Alberto Costa sul Corriere della Sera pubblica il minutaggio in azzurro dell'ultima stagione degli attaccanti e Gilardino arriva addirittura dietro a Cerci e a Destro, quindi non è solo un'alternativa, è di più, sì, insomma. È l'emergenza, voglio dire, Gilardino è lì per l'emergenza, ma è evidente che lui ha pagato lo scadimento complessivo di condizione fisica e anche il campionato obiettivamente un po' in sordina col Bologna. Per chiudere, oggi si torna a parlare di Kakà al Milan, di rientro da Madrid inserito in una trattativa per il Sharawi. Ci possiamo credere o è una suggestione che ci trasciniamo dietro ormai dal 2009, cioè dal giorno in cui Kakà se n'è andato da Milano? Secondo me è vera ed è autentica la cotta di Carletto Ancelotti per il Sharawi, è molto suggestiva ed appartiene più alla volontà del Real Madrid l'idea di piazzare e di liberarsi di Kakà oltre che del suo stipendio, ma per motivi anagrafici e per motivi economici di tetto di stipendio non credo sia possibile. Sì, non so nemmeno quanto sarebbe gradito dal pubblico milanista, perché la differenza di età è davvero tanta e si farebbe fatica a cogliere il senso del progetto, per quanto poi ci sia una storia d'amore con Kakà, i ricordi, il passato che torna. Scusami, è il Sharawi, il progetto sul Sharawi è bello, chiaro e netto, e cioè e il Sharabi parte solo e soltanto se c'è una offerta economicamente irresistibile che consente al Milan di comprare 3 giocatori. Se c'è questa condizione si fa, se non c'è questa condizione, bello, il faraone resta bello, pulito, tranquillo, pettinato a Milanello. E un ruolo gli andrà trovato anche con Balotelli. Grazie a Franco Ordine. Saluti. Grazie a Franco Ordine del giornale 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. A San da Verona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Vorrei, perché il primo ascoltatore è partito sì. pesante sul discorso siamo, di siamo partiti male, Hassan, però possiamo, possiamo anche procedere meglio. Abbiamo chiarito, lo abbiamo detto e quindi... Sì, no, io oltre alla critica non voglio criticare, però passerà nella storia Balotelli come il miglior attaccante italiano, sottolineo. Ma io glielo auguro questo. Anche per il discorso, però è una chicca nei confronti dell'allenatore Prandelli. Praticamente sì. non ha portato... un sostituto di Balotelli perché o per problemi fisici o per il suo carattere era ovvio che qualcuno doveva sostituirlo. Purtroppo l'Italia deve giocare contro la Spagna attaccando la miglior difesa e attaccare. Ci aspettiamo, come ha detto Franco Ordini, secondo me cadiamo nella trappola di tipo Barcellona perché bisogna giocare da italiani all'attacco ma non con la difesa a tre, bisogna fare l'attacco partire dall'inizio alla fine perché sennò finiamo come i mondiali. Certo. Questo che volevo dire, grazie. Grazie a San, io credo benedetta questa Confederations e benedetto anche questo infortunio di Balotelli perché probabilmente ha chiarito ulteriormente l'idea a Prandelli su quello che dovrà essere tra un anno prima del mondiale. A questo proposito, ieri sera Prandelli ne ha parlato quando ha parlato di quale dovrà essere il profilo dei 23 che arriveranno a questo mondiale. Sentiamo Prandelli. Questa Confederation serve tantissimo, servirà tantissimo per la Coppa del Mondo, perché dovremo arrivare con 23 atleti, non solo giocatori, con 23 atleti, quindi bisogna avere il tempo per preparare la squadra a livello fisico. Allora se tu arrivi preparato a livello fisico puoi sopperire al caldo, l'umidità e a tutto, ma se arrivi già con i serbatoi vuoti diventa veramente difficile e vedi quanti infortuni ci sono partita dopo partita. Poi è assurdo fare 3 partite in 6 giorni, è impensabile in queste condizioni. E io credo, e la lancio anche come provocazione, come tema di riflessione, ad esempio, che questa esperienza nella Confederations diminuisca drasticamente le possibilità di vedere tra un anno al Mondiale qualche grande vecchio. Penso ad esempio a Francesco Totti, cui Prandelli aveva mezzo riaperto la porta nei mesi scorsi, perché Totti era anche reduce da un'ottima stagione. Chissà se dopo aver vissuto 3 settimane in Brasile Prandelli su questo non abbia cambiato idea. Non c'è un giocatore alternativo a Balotelli, ma c'è un'alternativa tattica, peccato che non ci sia Di Natale, questo scrive Andrea da Parma. Beppe da Vicenza, con o senza Balotelli la Spagna ci farà 4 gol. E poi Marco, io giocherei senza punte ma con 2 portieri, beh comunque restiamo assolutamente sfavoriti rispetto alla Spagna. E poi un altro amico al 349-238-6666, Balotelli in qualsiasi squadra sia andato ha giocato qualche partita, poi per vari motivi è scomparso, è vero, anche se in realtà negli ultimi mesi ha trovato anche continuità con il Milan. 800 24 00 24 Franco dalla provincia di Pesaro e Urbino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io volevo rispondere alla prima telefonata, sì. Claudio mi sa che si chiama, che insomma si è espresso un po' maleducato. Io non capisco ancora come in Italia si riesca a parlare sempre della stessa cosa. Sì. Chiamare stranieri El Shaarawy, Balotelli. El Shaarawy è nato in Italia ed è italiano. Io non capisco ancora come ci siano queste persone e come si permetta di intervenire a queste persone nelle varie trasmissioni, ecco. Sì, Franco. Mi dà molto fastidio, non riesco a capire come in Italia ancora, cioè ci vogliono 100 anni per cambiare idea. Ma probabilmente ce ne vorranno anche 200, poi le persone intervengono perché questo è comunque uno spazio aperto, esiste un filtro. E poi le cose che sono state dette dall'amico che ha chiamato in apertura di trasmissione mi sembra siano state adeguatamente sottolineate. Ovviamente questa radio e questa trasmissione in nessun modo possono sottoscrivere e pensare quello che l'amico da casa ha detto in apertura, però io vi invito anche adesso ad andare oltre. Grazie a Franco. A proposito di che cosa ci aspetta contro la Spagna, ancora Prandelli sul calcio del futuro. Io ho visto Spagna, Nigeria ieri, nel primo tempo la Nigeria ha creato 4 palle gol. Allora, questo è il calcio. Allora, se pensiamo di vedere il calcio dove tu squadra non dai una palla gol all'avversario, siamo fuori dal tempo. In Italia succede questo. Basta avere il riferimento del campionato italiano. Noi dobbiamo avere il riferimento del campionato europeo e del campionato mondiale. Allora sì, possiamo ragionare. Ogni partita tu offrirai 4-5 palle gol all'avversario, ma devi costruire 6 o 7. Questo è il calcio del futuro. Il calcio del futuro, secondo Prandelli. Intanto sottolineo che oggi c'è un allenatore che probabilmente rappresenta ancora il calcio del passato, Carlo Ancelotti, che ufficialmente si è seduto sulla panchina del Real Madrid, contratto di 3 anni, verrà presentato domani a partire dalle ore 13, e oggi si è sistemata anche l'altra, ultima grande panchina europea che era rimasta senza un allenatore. Parliamo del Paris Saint-Germain. Laurent Blanc ha firmato un contratto biennale e quindi sarà lui l'erede proprio di Carlo Ancelotti. In questi minuti, tra l'altro, la Juventus è appena atterrata a Manchester, dove presenterà l'offerta ufficiale al Manchester City per Tevez. Noi ci fermiamo, ci sono le notizie di borsa, poi torniamo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, tutti convocati. Senta Adam, mi perdoni, ma lei il suo bimbo l'ha chiamato Mario o Mario Balotelli? Mario Balotelli. No, veramente? Veramente, Mario Balotelli. Tutti convocati. Intanto il presidente del Siena Mezzaroma: pagare gli stipendi entro oggi la vedo difficile, continuiamo a trattare, speriamo di riuscire a risolvere in tempo. Siena che quasi certamente inizierà la prossima stagione in Serie B con una forte penalizzazione proprio per queste questioni economiche. Noi tra pochi minuti parleremo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore dell'ultima inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano, l'inchiesta che viene dalla Procura di Napoli e che oggi ha visto la Guardia di Finanza impegnata ad acquisire documenti su contratti e sponsorizzazioni in 41 club di Serie A, B e Lega Pro. 800 24 00 24, Francesco dalla provincia di Salerno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A me. Volevo fare un'osservazione. Sì. Prandelli, come allenatore della Lazio, lascia molto a desiderare. Non è coraggioso, già come ha dimostrato l'anno scorso contro la Spagna. Mi dice, tre giocatori in gamba a zoppare, fuori fare. Buffon deve fare ormai, ma in base decadente. Deve mettere Marchetti o Sirico, Buffon è in base decadente, così con altri giocatori. Deve cercare di migliorare cambiando i giocatori più giovani e pieni di energie e più freschi. Sì, Francesco, però mi permetta e mi scusi, Buffon ha commesso certamente qualche errore, è tutto da dimostrare che Marchetti possa reggere il peso e l'impatto di una competizione importante come comunque la Confederations, e a maggior ragione tra un anno di quello che sarà il Mondiale. Prandelli meno di un anno fa ci ha portato alla finale dell'Europeo a Kiev. Io credo che fin qui il giudizio sul suo lavoro alla guida della nazionale debba essere un giudizio positivo. È vero anche, e lo abbiamo detto, l'ho detto, che nell'ultimo anno ha perso un po' il filo di quell'evoluzione nel gioco che aveva anche promesso dopo l'Europeo. Probabilmente lui stesso ha capito che qualcosa va cambiato da qui alla prossima estate. Vediamo con pazienza, intanto cerchiamo anche di guadagnarlo questo passaporto per il Brasile, perché a settembre siamo attesi da 2 gare decisive. Due gare che giocheremo, la prima sicuramente, la seconda si vedrà, senza Mario Balotelli, squalificato per quella follia in Repubblica Ceca. Mimmo da Agrigento, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Intanto complimenti per la trasmissione. Dica. No, volevo fare una considerazione. Come mai Prandelli ha rischiato Balotelli in quella partita inutile col Brasile, diciamo? Perché bisogno, secondo me. Ma perché io credo, perché la Confederations è in realtà, al di là del risultato che otterrà la nazionale domenica, sì, primo, secondo, terzo, quarto, è un test molto importante, e quindi è la possibilità vera che ha Prandelli di misurarsi con nazionali che si spera tra un anno saranno le nostre principali avversarie per il mondiale, e quindi da questo punto di vista, sì, è un test che si affronta con la nazionale migliore. Anche per questo motivo io invito a non sottovalutare, scusi Mimmo, l'importanza anche di un eventuale finale per il terzo e quarto posto, perché vorrebbe dire giocare comunque contro lo stesso Brasile o contro l'Uruguay. Si tratterebbe di un'amichevole, ma di un'amichevole importante. L'ha rischiato, gli è andata male. Il problema secondo me è che non ha un'alternativa a disposizione in Brasile. Grazie comunque a Mimmo. Ringrazio anche Marco Belinazzo. Ciao Marco. Ciao Giovanni. Collega del Sole 24 Ore, col quale cerchiamo di mettere un po' ordine a quello che sta accadendo in queste ore nel mondo del calcio italiano. Breve riassunto, da questa mattina la Guardia di Finanza è impegnata a visitare le sedi di 41 club, c'è praticamente tutta l'ultima Serie A, tranne Cagliari e Bologna, ci sono club di Serie B e di Lega Pro, ci sono anche società straniere di cui però non è stato reso noto il nome. Nel mirino ci sono 12 procuratori, i due nomi più importanti sono quelli di Alessandro Moggi e di Alejandro Mazzoni. È stata acquisita la documentazione di una cinquantina di contratti di calciatori anche di primo livello. Il nome più importante che facciamo è quello di Lavezzi. Ci sono ipotesi di reato molto importanti. Partiamo da qui, dall'ipotesi di reato, perché alcuni amici al 349-238-6666 ce lo stanno chiedendo. Qual è l'ipotesi verso i procuratori, verso i calciatori, verso i club? Di cosa stiamo parlando, Marco? Tecnicamente stiamo parlando di un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione internazionale, alle false fatture. È un fattispecie importante che riguarda in prima battuta i procuratori, quelli che sono per il momento gli unici indagati. Chiaramente l'attività che ora la Guardia di Finanza e la Procura di Napoli, che conduce le indagini, sta portando a termine è quella di acquisire tutta la documentazione sui contratti dei calciatori che sono stati gestiti da questi procuratori per verificare se è tutto in regola, vale a dire se i pagamenti effettuati dalle società ai procuratori innanzitutto sono stati pagati per prestazioni effettive, non quindi per prestazioni fasulle, da qui l'ipotesi di false fatturazioni sistematiche peraltro, dice la Guardia di Finanza, e dall'altra per capire se poi le somme che sono andate all'estero sono state, come dire, quelle somme si è pagato quanto si doveva al fisco, ovvero se ci sono stati movimenti di somme in nero, quindi che hanno prodotto evasione e riciclaggio. In poche parole, quindi, se determinati introiti pagati ai procuratori o alle società, in particolare del Sud America, che hanno venduto determinati calciatori, siano stati introiti e pagamenti quindi reali, o se sia stato poi una parte di quello ufficialmente versato è stato poi invece stornato e quindi tornato nelle tasche di questi procuratori o magari di dirigenti sportivi, evadendo il fisco e realizzando quindi una frode internazionale. Quindi in questo momento, ma in questo momento siamo nel corso delle indagini, ufficialmente non sono i club nel mirino, siamo ancora a un livello diverso, questo possiamo dirlo, questo pare anche di leggere tra le righe del comunicato della Procura di Napoli, che contiene anche diversi errori, quindi c'è stato un giallo nella mattinata anche sul nome delle società che hanno ricevuto la visita della Guardia di Finanza. Marco? Siamo a questi livelli. In questa fase, però, come ben sai Giovanni, che quando poi si vanno a guardare le carte, quando si vanno a guardare i bilanci e i contratti, tutto poi può succedere, non è detto che appunto l'indagine non si allarghi alle stesse società o ai dirigenti sportivi, qualora fosse comprovata la complicità in queste operazioni di evasione e di truffa. Quello che va detto appunto è che, per quanto mi risulta, tra l'altro non andiamo molto indietro con il passato sui tempi, quindi i contratti acquisiti riguardano un periodo che va dal 2011 a oggi, e quindi non tanto indietro nel passato, come invece era accaduto l'anno scorso quando erano stati acquisiti i contratti del Napoli, ma credo che poi la svolta fondamentale in questa indagine siano state le perquisizioni di questa primavera in casa di Moggi e di Mazzoni, e quanto mi risulta appunto penso che in quella sede siano stati poi individuati documenti molto utili a far deflagrare così l'indagine, perché quello che ci si poteva attendere dopo l'indagine partita da Napoli era un'acquisizione di documenti presso le società, come dire, controparti del Napoli. Viceversa, qui ci troviamo di fronte a un'indagine molto più vasta che riguarda praticamente tutto il calcio professionistico italiano. Sì, allora facciamo qualche nome di questi 50 contratti: Lavezzi, Nocerino, Immobile, Sculli, poi si va anche indietro nel tempo: Mutu, Tacchinardi, Tavano, Oddo, Le Grottaglie, Stankevicius, Campagnaro, Aronica. Questi diciamo che sono i più noti che in queste ore vengono indicati anche dalle agenzie di informazione. Ti leggo un'ANSA che mi ha incuriosito, è uscita da pochi minuti. Indagando sulle società di calcio, la Guardia di Finanza ha rilevato una situazione di squilibrio gestionale sul piano economico-finanziario, e cioè nonostante i club abbiano visto aumentare gli introiti attraverso incassi e diritti televisivi, hanno continuato a spendere sempre di più per i contratti dei calciatori. La Guardia di Finanza vuole vederci chiaro. Mi incuriosisce. È come se si lasciasse intendere in qualche modo lo squilibrio economico del calcio italiano fosse uno squilibrio indotto, sarebbe un'ipotesi clamorosa. Beh, indubbiamente, sembrerebbe un'osservazione quasi banale per chi si occupa dei conti delle società e sa evidentemente che questi squilibri ci sono, ma evidentemente lascia prefigurare questa indicazione una sorta di ricerca del passivo, comunque di costi deliberatamente gonfiati per pagare meno imposte o per creare dei fondi neri. Però io, ecco, ci andrei con i piedi di piombo, ricordando che in ogni caso il calcio italiano tra le varie imposte versa allo Stato ogni anno quasi 1 miliardo di euro, insomma basterebbe un miliardo tondo. Basterebbe questa cifra, insomma, a far sospendere l'IVA, l'aumento dell'IVA per i prossimi 3 mesi, tanto per capire la mole di imposte di cui stiamo parlando. Cioè, nonostante non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che determinati fenomeni illeciti ci sono, hanno riguardato anche il mondo del calcio in passato, probabilmente lo riguardano tuttora, ed è bene che la Procura e la Guardia di Finanza procedano in una indagine che non è semplice, perché appunto si parla di ipotesi di estrovestizione, di verifica sui fringe benefit, di evasione internazionale, tutte ipotesi che è difficile poi da accertare, e soprattutto che comportano la necessità di collaborare anche con le amministrazioni fiscali estere, e bisogna, come Segugi, rintracciare i flussi di denaro che viaggiano alla velocità della luce e viaggiano soprattutto tra vari paesi, non tutti collaborativi, ecco, dal punto di vista della trasparenza fiscale. Sicuramente nei prossimi mesi avremo da seguire ancora le tracce di questa inchiesta. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siete in tanti che state scrivendo sulla questione Balotelli. Al 349 238 6666 c'è anche Fabrizio da Novara che dice: Balotelli ha fatto 4 gol in tutta la sua carriera, molto meglio El Shaarawy. Evidentemente Prandelli non la pensa così, non la penso così nemmeno io, ma non perché El Shaarawy non abbia delle grandi prospettive davanti a sé, ma perché evidentemente Balotelli è un giocatore in grado di far fare il salto di qualità a questa nazionale. Prandelli se ne è accorto. Il rischio è che Balotelli negli ultimi mesi ha cannibalizzato il progetto tattico dell'Italia, almeno per quanto riguarda il reparto dell'attacco, e se manca Balotelli si apre un problema, il problema che affronteremo nella semifinale contro la Spagna. Roberto da Bologna, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Ma niente, io rimango sbalordito quando sento dire che sì, ci sarà la corruzione nel calcio, però in fin dei conti vengono versati con le tasse 1 miliardo di euro, non so cosa. Un miliardo tondo di euro nelle varie forme di imposte, di tasse. Io non transigo su queste cose. Sì, però Roberto, mi perdoni, la fermo, poi c'è Marco Belinazzo in collegamento e quindi completerà meglio il suo ragionamento. Certamente Marco Belinazzo e tantomeno il sottoscritto stavano giustificando eventualmente quello che emergerà dall'inchiesta della Procura di Napoli. Si faceva solo un ragionamento su qual è il peso fiscale del calcio italiano, Marco. L'abbiamo detto, insomma, il marcio c'è e va combattuto, bisogna però ricordare quello che è il contributo dell'industria calcio e non si può sparare a zero poi contro tutti e distruggere anche l'immagine, no, di questa industria, che in ogni caso è un'industria che, ripetiamo, produce miliardi di entrate per lo Stato italiano, tutto qui. Questo risponde anche ai tanti che spesso dicono che il calcio in vari modi si fa sostenere dallo Stato, anche ad esempio per garantire la sicurezza negli stadi tutti i weekend. Vittorio dalla provincia di Lecce, buon pomeriggio. Salve, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché date sempre delle notizie vere e comunque dico non... Io volevo fare una... Vittorio, la ringrazio, sì, per il complimento, però abbassi la radio, prego. Sì, scusate. Io vorrei fare un appunto su quella gente che dice che la Spagna comunque con Balotelli o senza Balotelli ci fa dei 4 gol, o che addirittura dicono non bisogna giocare, bisogna giocare senza attaccanti ma mettere 2 portieri. Io dico, è vero che siamo inferiori alla Spagna, però questa gente, se non vuole tifare Italia, che non tifi Italia, dico, vuole tifare Spagna, però almeno un po' di amor di patria, qualcosa, dico, un po' di rispetto. Ha ragione Brandelli quando dice che si perde il rispetto per la nazionale. Sì, Vittorio, io credo che in realtà il ragionamento da fare sia un altro. Un anno fa noi abbiamo preso 4 gol dalla Spagna in condizioni eccezionali, con un giorno di riposo in meno dopo un torneo durissimo, con una parte della rosa titolare acciaccata dopo la semifinale contro la Germania, rimanendo in 10 all'inizio del secondo tempo, e da lì è uscito il 4-0 che ci ha mortificato. In condizioni normali probabilmente la differenza tra noi e loro non è così profonda. Marco Belinazzo, torniamo sull'inchiesta della Procura di Napoli. C'è un altro tema caldo, che è quello dello sfruttamento dei diritti di immagine, che è assolutamente d'attualità e non solo da noi, perché è di questi giorni la notizia dei guai di Messi col fisco spagnolo. Messi, che in realtà, al di là delle smentite, pare aver scelto la via dell'accordo, della transazione, con un versamento da 10 milioni di euro. Resta una zona oscura, quella dei diritti di immagine, nei rapporti tra club, fisco, procuratori e società. È iniziato negli anni '80 lo sfruttamento dei diritti d'immagine, e evidentemente fin da subito è stata questa una porta attraverso la quale molti si sono infilati per drenare risorse illecitamente. Mi spiego meglio, già dalla vicenda clamorosa relativa a Maradona, che oggi tutti conosciamo, c'entravano appunto i diritti d'immagine, ma sicuramente non era un caso isolato. Questi diritti d'immagine, che consentivano di pagare somme al calciatore depositandole su società estere, su queste imposte, su queste somme il calciatore non pagava imposte, la società, pagando queste somme come diritti d'immagine e non come stipendio vero e proprio, non ci pagava di fatto le ritenute, quindi l'ingaggio non raddoppiava. È il caso di Maradona, ma guarda caso è la vicenda di Messi di oggi, quindi non sono cambiate. È chiaro che sulle royalties, sullo sfruttamento delle royalties e soprattutto sulle triangolazioni con società estere si è creato un sistema di evasione fiscale difficile da accertare, perché, come ripetiamo, abbiamo detto prima e ripetiamo, quando si tratta di evasione internazionale tutto diventa più difficile, è difficile seguire i flussi di denaro. È chiaro che va regolamentato meglio e che va fissato, a mio avviso, un chiaro paletto per stabilire cosa è diritto d'immagine, cosa è retribuzione e soprattutto per specificare che per esempio i diritti d'immagine ai calciatori non vanno pagati all'estero ma vanno pagati in Italia e su quelle imposte il calciatore deve pagare le tasse così come paga le tasse sulle retribuzioni. Cioè, sai, se c'è questo meccanismo malsano a mio avviso che si è creato nel mondo del calcio per cui la società paga anche le imposte del calciatore, l'ingaggio è sempre al netto quello che finisce nelle tasche del calciatore, quindi si ha un meccanismo assolutamente lecito ma che crea poca chiarezza. Quando c'è opacità chi vuole, spesso i consulenti dei calciatori sono tali, sono bravi, può tentare di approfittarne perché... esattamente, e del resto i calciatori sono oramai delle industrie che camminano su due gambe. Maurizio da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego Maurizio. Guardi, io volevo dire due cose circa la nazionale. La prima che condividerei se Prandelli decidesse di giocare con tre difensori, perché nella partita degli europei l'Italia pareggiando 1-1 ha fatto comunque una buona partita, la Spagna è forte e noi non abbiamo in questo momento molta gamba rispetto agli spagnoli, quindi un atteggiamento del genere un po' più prudente lo vedrei. Soprattutto se i due esterni sono difensivi. Poi la seconda considerazione? La seconda considerazione è un pelo di rammarico, perché forse un attaccante di ruolo e di peso tipo Osvaldo o Pazzini o qualcosa del genere forse avrebbe fatto comodo per una partita del genere. Sicuramente avrebbe fatto comodo. Pazzini rientrerà fra 4 mesi dopo l'operazione al ginocchio. Osvaldo si è autoeliminato con quel tweet, poi vedremo se tra un anno questi comportamenti ricadranno ancora sotto la scure del codice etico di Prandelli, ma così è in questo momento e quindi in Brasile oggi l'Italia non ha alternative. Marco dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Salve. Riguardo alla nazionale, ho sentito le parole di Prandelli che dice che nel calcio futuro si lasciano delle occasioni agli avversari. Ho visto Spagna-Nigeria. Sì. Mi sembra che la Nigeria atleticamente abbia fatto una grossa partita e non credo che in questo momento l'Italia sia in condizione di pareggiare una prestazione atletica come quella che ha fatto la Nigeria, quindi la vedo molto dura, ecco. Sì, anch'io, però Marco, a me sinceramente dal punto di vista atletico l'Italia contro il Brasile non è dispiaciuta, tant'è vero che ha giocato molto meglio l'ultima mezz'ora della prima. Ad esempio il crollo l'Italia dal punto di vista atletico l'ha avuta contro il Giappone, che è una squadra che ha corso molto di più in condizioni ambientali particolari, perché si giocava praticamente nella foresta ed evidentemente i nostri non erano pronti dal punto di vista fisico e quindi hanno pagato. Contro il Brasile mi sembra sia andata decisamente meglio, ovviamente l'Italia dovrà tra un anno tornare in Brasile in condizioni differenti. Per chiudere Marco Bellinazzo, abbiamo meno di un minuto, io spero che questa inchiesta della Procura di Napoli faccia finalmente luce sul reale ruolo e potere degli intermediari, dei procuratori, degli agenti che sono i veri padroni del calcio. Abbiamo un minuto, Marco. Non c'è dubbio, tra l'altro basta andare oggi a leggere i bilanci delle società per vedere come la quota che finisce nelle tasche dei procuratori sia sempre più alta. C'era anche in sede FIFA la volontà di modificare il regolamento degli agenti e di ridurne il peso, la lobby degli agenti del procuratore è stata talmente forte da bloccare questo progetto. Mi auguro che almeno in Italia questa sia l'occasione per fare un po' di chiarezza, almeno dal punto di vista normativo. E anche forse per ridurre i numeri. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi, a presto. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo qui. La Juventus è a Manchester per prendere Carlitos Tevez. Presenterà l'offerta, 12 milioni di euro, l'accordo con il procuratore c'è già e quindi se il Manchester City dirà sì questa sera o domani o comunque nei prossimi giorni, Tevez potrà essere un giocatore della Juventus. Noi ci fermiamo, l'appuntamento è per domani alle ore 14. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano, a domani.